Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In caserma, dopo le prime settimane, la situazione è migliorata. Poligono, marce, assalto e ponte tibetano. Ma la fatica si fa l'abitudine in fretta. Poligono, marce e poligono. Carlo è bravo a tirare e il tenente Giovannini purtroppo lo capisce. Lei viene con noi stanotte. Alle 2, fuori dalla camerata. Sono Carlo Scialoia, ho circa 40 anni, vivo nelle Marche. Per vivere lavoro nella sanità. Ho due figlie. Una vive in Nuova Zelanda e l'altra vive un pochino lontano da me. E tu pensa se vive un po' lontano da lui la seconda, visto che la prima vive in Nuova Zelanda. Parleremo più tardi con Carlo, perché oggi parliamo della sua storia. La storia di un'obbedienza ad un ordine un pochettino scomodo, però si parla di militare, quindi un ordine vale l'altro. È la storia che ci ha raccontato lui con il suo racconto, che ha mandato a voi siete qui @radio24.it. Ve lo ripeto perché ogni tanto qualcuno mi chiede, o meglio no, non me lo chiede, però arrivano dei racconti che non sono dei racconti inerenti a quello che chiediamo. Semplicemente quello che ci piacerebbe sapere da voi è un piccolo episodio della vostra vita, non una biografia e non un saggio su qualcosa, semplicemente un racconto che riguarda un piccolo episodio della vostra vita, che quindi ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Una pagina, non di più, a voi siete qui @radio24.it. E se tutto andrà bene, quel racconto verrà preso, verrà, diciamo, sistemato. Io e Stefano D'Andrea ci metteremo le mani, lo renderemo, diciamo, radiofonico? Diciamo radiofonico. E poi lo leggeremo in diretta e racconteremo quindi la vostra storia. Questo è il programma di quest'anno, è ogni giorno una storia diversa. Oggi è la storia di Carlo Scialoia e del suo no, o meglio, della volta in cui probabilmente avrebbe preferito dire di no. Si parla di no, si parla di rifiuti, di rifiuti non in quanto immondizia, ma di rifiuti, di grandi rifiuti. Dico di rifiuti perché prima è arrivata una mail di un'ascoltatrice che mi ricordava, questo era un ricordo che io ce l'avevo ancora dal seminario, che era proprio il gran rifiuto, che era quello di Papa Celestino V, di cui ricordavo pochissimo e lei mi ricorda qualcosa di più. E lui era un eremita del 1200, molisano mi pare, che aveva fondato forse un ordine benedettino e si chiamava, aspetta che me l'hanno anche segnato, Pietro Angeleri. Non era un ordine benedettino? No, qua diciamo cose a caso, Bonini, probabilmente. Comunque, insomma, che fosse un eremita su quello, quella è l'unica cosa che mi ricordo. Insomma, non si capisce bene il perché il conclave decide di farlo papa, e lui ha 85 anni, eppure abbastanza anziano. Quindi lo vanno a prendere in una grotta tra i monti della Maiella, in cui si trovava lui. Cioè, tu pensa a questo. È a farle l'eremita alla Maiella nel 1294 e arrivano dei vescovi che gli dicono: senti, avremmo deciso di farti papa. Lui ci pensa un po', perché d'altra parte, essendo eremita in una grotta, bisogna ripensarci un po'. Insomma, sotto le pressioni accetta, ma resiste tipo 4 mesi, non di più, nel senso che, questo invece me lo sono segnato, il 13 dicembre del 1294 Celestino V legge queste parole: io, Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni per umiltà e debolezza del mio corpo e per la malignità della plebe, al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che esso comporta. 349-238-6666. Sembra un po' la scena iniziale di Habemus Papam di Moretti, in cui ci sono tutti, che è una delle scene più belle, in cui ci sono tutti i vescovi seduti durante il conclave e si sente la loro voce, la voce del loro pensiero che dice: fa che non sia io, ti prego signori, non io. 349-238-6666. Si parla dei no che vi è capitato di dire qualche volta, dei vostri grandi rifiuti, esattamente il rifiuto che Carlo Scialoia non è stato capace di dare. A Cesano, dopo le prime settimane, la situazione è migliorata. Poligono, marce, assalto e ponte tibetano. Ma alla fatica si fa l'abitudine in fretta. Poligono, marce e poligono. Carlo è bravo a tirare e il tenente Giovannini purtroppo lo capisce. Gli dice che saranno 154 giorni d'inferno. Lei, con me. Carlo lo segue in una radura del poligono, con un gruppo di mastini della guerra. Il tenente urla. Chiede se gli piacciono i vitelli. Comandi, signor tenente, in che senso? Il sottoscritto non capisce. Il tenente tiene le dita lungo la cucitura dei pantaloni, rigido, mento alto e sguardo tronfio. Lo guarda appena. Lei non è un coglione, Shaloya, ha capito bene cosa intendo. Lei viene con noi stanotte, alle 2, fuori dalla camerata. L'esperienza militare ed è tutto casuale. Ho provato l'esame e mi hanno preso alla scuola ufficiale. Non volevo più studiare giurisprudenza in quel periodo. Ho vissuto 4 anni di delirio da Dio. Facevamo tutto e potevamo tutto. Sparo bene come Giovanni Allievi suona. È talento e allenamento. Mira, espira, spara. Mira, espira, spara. Se lo ripete Carlo quella notte, una profezia, un mantra, un'abitudine ormai. Ha sparato tanto in quei mesi. Mancano 2 settimane al grado di sottotenente e poi sarà ufficiale. Quella notte il tenente Giovannini arriva puntuale o non sarebbe un istruttore. Insieme a Carlo, gli allievi Scardino e Pietri, 2 ragazzi bravi a sparare come lui. I 4 si avvicinano a un lince. Giovannini abbaia ai suoi assistenti: incappucciateli e metteteli dietro. C'è un po' di perplessità, ma Giovannini non si ferma. I conigli possono tornare in camerata, dice, avranno un bel incarico a perdas de fogo. Entrano tutti. Il lince percorre chilometri, arrivano, scendono e si appostano dove il tenente comanda. Fucili Duganov, Sako ed Enfield, dei gioielli. Capolavori di ingegneria meccanica, non ci si spara tutti i giorni. Si piazzano a terra e Giovannini dà l'ordine. Ecco, ora sparate alle mucche. Anzi, non alle mucche, ai vitelli. Quelli pezzati, quelli che hanno delle macchie che sembrano bersagli naturali. Io ora scendo, ne tiro fuori 3 da quella stalla là in fondo. Sono 500 piedi circa, non c'è vento. Non devono avere il tempo di arrivare all'abbeveratoio. Scardino è freddo, Pietri è agitato. Carlo invece prende l'iniziativa. Mima con le mani il primo. Pietri il secondo, poi Scardino. Esce un vitellino, a pezze larghe. Carlo attiva il visore. Il giovane toro appare verdino adesso. Mira, espira, chiude gli occhi e preme il grilletto. Sarà centro, Carlo lo sa. Quando chiude gli occhi un istante prima di sparare, lo sa. Il bersaglio va sentito. Se sai che è centro, ti viene da chiudere gli occhi. Il calibro 12 entra sotto l'orecchio del vitello che si china in avanti, cade su un fianco, trema qualche secondo e poi smette. Pietri c'entra al secondo al garrese, dopo quasi 30 metri di attesa, ma non lo uccide. Claudio si agita per l'errore. Scardino invece fulmina il terzo, mentre il secondo muggisce ancora. Il tenente urla di fermarsi. Scardino, Shaloya, fate schifo. Pietri, lei va bene. Venite giù, ispezionarma. Nello scendere i 3 allievi sono storditi. Pietri ha sbagliato, ma Carlo non capisce perché il tenente gli abbia detto che va bene invece se il vitello ancora si agita. Diligenti, i 3 scaricano i fucili, aprono il cane e in riga mostrano l'arma al tenente per l'ispezione. Comandi, signor tenente, non capiamo perché il sottoscritto è Scardino. Giovannini è verde come la luce dei visori e mentre finisce il vitello con la 92FS comincia: perché lei, Shaloya, non capisce un cazzo, cosa fa, la bonifica? Voi siete soldati. Agite in territori urbani e di guerriglia. Se finite le vostre vittime, sbagliate. Se lei, Scardino, uccidesse al primo colpo, avrebbe un cadavere. A cosa serve un cadavere? Voi li dovete ferire. Gambe, braccia, farli urlare. Arriveranno i compagni per aiutarlo. Ferite anche loro, una alla volta, finché non eliminate tutta la squadra. Farete così. Chiaro? L'ordine non lo vuoi rifiutare. Lo vuoi fare. Almeno noi lo volevamo. La sensazione di sparare è un secondo di sospensione. Espiri, chiudi gli occhi, premi e guardi cosa hai fatto. La paura è solo di sbagliare. La concentrazione è un numero, 1,4, che è poi la media di proiettili necessari ad un cecchino per poter colpire qualsiasi bersaglio. In coro rispondono: comandi, signor sì, signor tenente. Prende il coltello, Giovannini. Taglia le gole ai vitelli e il sangue scuro comincia a colare. Poi ordina di farcisi il bagno, che per essere cecchini bisogna avercelo addosso. E fate in fretta, che poi passiamo alle capre. There's a dagger in my hand. There's a dagger in my hand. There's a dagger in my hand. And I don't want to give it to you. There's a soul that's hungry for it. There's a face that's begging for it. There's a dagger in my hand, and I don't want to put it in your heart. Che io il militare non l'ho fatto. E quindi non so esattamente cosa significhi vivere tutti i giorni con l'obbligo di obbedire degli ordini, qualsiasi essi siano, ovviamente. So però che ho sempre pensato che gli ordini, quelli più terribili, siano quelli che mettono in discussione la tua identità, chi sei e perché fai oppure non fai certe cose. Ci sono degli ordini che sono radicati nella cultura in cui viviamo e in quel caso sono più delle leggi che altro, sono delle norme di vita. Altri invece sono insiti nelle religioni che seguiamo, di solito si chiamano precetti. Tutti però, tutti noi abbiamo sperimentato la sensazione di qualcuno in piedi di fronte a te che ti dice fai così. Da bambini, quando i genitori cercano una via per educarci, ovviamente, a scuola, ma anche nei giochi. Per arrivare fino al lavoro, ovviamente, che poi è un po' la quintessenza dell'ordine, no? Magari nascosto, o magari no, magari invece perentorio. Però il lavoro, salvo rarissimi casi, è una cosa che noi preferiremmo evitare, ma che siamo costretti a fare. Quando ho letto questo racconto, quello sulla Naya, quello di Carlo, mi è venuta in mente un'altra storia, che è una storia che mi aveva raccontato il nonno di Claudio, un mio amico. Il nonno di Claudio era un ex partigiano, non parlava mai di quel periodo. Però una sera, dopo una cena a base di formaggio e vino rosso, forse troppo vino rosso, ci raccontò una storia, la storia di Antonio, che era un piccolo messaggero. Un piccolo che dovette far fuori un suo amico, un amico che aveva fatto la spia. La storia era questa qua. La storia di Antonio tutti i giorni raggiungeva la Cappella dell'Immacolata, a metà strada tra il paese e l'alpeggio di Sadrina, quello in cui la statua della Madonna guarda triste il proprio bambino. Antonio portava buste che gli consegnava al parroco del paese, buste bianche, sigillate, che portavano un'unica scritta: per la patria. Si svegliava prestissimo, alle 6 del mattino era già alla cappella, si inginocchiava e recitava l'Ave Maria ad alta voce, e poi ripeteva due volte l'ultima frase. Al segnale suo padre sbucava dal nulla, gli scompigliava appena i capelli, prendeva le buste e lo salutava, raccomandandogli di fare attenzione. Solo che un giorno qualcuno lo seguì, gli strappò la busta con le informazioni di mano e le lesse. E prima che potesse succedere qualsiasi cosa, il padre sbucò dal nulla e lo obbligò a farlo fuori. Antonio aveva 13 anni, il suo amico 14, e da quel momento salì in montagna, in paese non si vide più. Non se ne seppe più nulla. Ecco, questa storia qua, vera o falsa che sia, mi torna in mente spesso quando sento parlare di ordini perentori, ordini ai quali è impossibile dire di no, anche se si preferirebbe non farlo. L'ordine a cui ho obbedito con maggiore difficoltà arrivò da un mio amico, o che almeno pensavo essere tale. Era uno di quegli ordini quasi iniziatici, no? Che appartengono alla categoria ingresso in società o in un club. Mi obbligò a strappare una pianta dal giardino di casa del mio paese. Era una casa, una qualunque, conoscevo quella casa e conoscevo anche i due signori che ci vivevano. Erano stati amici dei miei quando erano giovani. Io avrei dovuto fare così, avrei dovuto scavalcare la recinzione, portarmi dietro un badile, scavare un piccolo canale tutto intorno e poi sradicarla. Era una magnolia, credo, era alta un metro e mezzo, tutta verde di foglie. Io ero convinto di poterlo fare e ci arrivai là. Arrivai di fronte a quella cancellata con lui e altri due che mi guardavano al riparo dall'altra parte della strada. Fortunatamente in quel momento realizzai che non ero davvero obbligato a farlo e che avevo la possibilità di dire di no. Quando ci è arrivata questa storia ci siamo chiesti, ma sarà vera? Nel senso che sembrava veramente una parte di un romanzo, no? Un po' per le ambientazioni che erano molto cupe, un po' perché si raccontava una cosa che aveva anche una una sua forza, una sua violenza. E tra l'altro l'abbiamo un po' ridotto, abbiamo fatto in modo che le parti più cruente non venissero fuori. Poi abbiamo scoperto che la storia era vera e che era successa diversi anni fa, e quindi abbiamo deciso di raccontarla. E insieme ad aver deciso di raccontarla abbiamo seguito la richiesta della persona che l'ha scritta, che ci ha chiesto semplicemente di essere anonima, e quindi è al telefono con noi, ma Carlo probabilmente non è il suo nome. Pronto Carlo? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Sto male perché ho riletto, ti ho sentito scrivere, leggere quello che ho scritto, e è stato un tuffo in un passato veramente crudo. Senti, crudo. Era il 1988. All'incirca 1988, sono un vago anche nelle date. Insomma. Giustamente, quindi vabbè, più o meno tu quanti anni avevi però, Carlo? Io avevo 23 anni. Avevi 23 anni e scusami, questo è, tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: come lo capisco, 108 AUC, tu capirai cosa vuol dire. 108 AUC è il numero del corso, il mio è un po' più recente. Ok. Cioè, che sono in sequenza, che... giusto, semplicemente? Cioè, vanno per anno? Erano circa 4 corsi all'anno, e quindi 108 sono corsi pari. Tra l'altro è un corso che è stato negli stessi luoghi dove sono stato io. Senti, facciamo così, Carlo, io ho visto che vorrei chiederti un sacco di cose, però facciamo che, però non so a quali puoi rispondere, quindi io te le chiedo e tu semplicemente mi dici posso o non posso rispondere. Tu non sei più un militare adesso? Ufficialmente no, però ogni tanto può capitare, sì. Può capitare. Cioè può capitare che torni a fare il militare? Non si parla di operazioni militari in senso stretto, comunque ho delle conoscenze che... Ma puoi dirmi cosa fai nella vita, Carlo, adesso? Sì, lavoro nella sanità. Lavoro nella sanità. Sto in qualche maniera espiando. Senti, dopo quanto sei uscito sì, insomma, quando hai mollato? A livello ufficiale dopo 4 anni, in realtà vieni richiamato, vieni riusato, e quindi diciamo che alcuni servizi, alcuni sopralluoghi, alcune perizie, alcuni addestramenti sono durati anche fino a 5-6 anni fa. Senti, c'è mai stata una volta in cui hai veramente detto di no? No. No, mi piaceva tanto questo lavoro. È terribile dirlo, ma mi piaceva tanto. E scusami, però, perdonami, quando è successo che è scattata una roba per cui da un certo punto in avanti ha smesso di piacerti? Probabilmente la maturità, probabilmente l'essere cresciuto, essere diventato un uomo, mi ha portato... Ti ripeto, io adesso sto facendo una cosa... Sono dall'altra parte della barricata, quindi sto espiando in qualche maniera e in qualche modo poi questo racconto che è un pochino più ampio. Diciamo, sì, era molto, ti chiedo scusa, ho dovuto chiaramente accorciarlo mai provocato delle emozioni fortissime, quindi credo che hai... Senti, questo era cos'era, addestramento ancora, giusto? Questo era solo addestramento, sì. E poi da lì in avanti tu che cosa, hai fatto delle operazioni di guerra, di pace? Sì, le operazioni di pace non esistono, sono operazioni di guerra. Vabbè, le chiamano così. O stai lì a guardare tipo Srebrenica e quindi vedi gente uccisa senza poter fare niente, no? Come caschi blu, oppure fai qualcosa. E ci puoi dire dove sei stato? No. Sono stato in Libano, insomma... Una volta in Libano, poi in un altro posto, poi sono stato in Germania Est quando le Germanie erano divise per intero. Ma quanti anni hai? Scusami, non si può dire neanche quello, non si può dire niente. sì, ho 47 anni. Hai 47 anni. Senti, purtroppo ti devo salutare, Carlo. Mi dici solo, almeno visto che sento che accusi il ricordo di quel periodo, mi dici se c'è di quel periodo almeno un buon ricordo? Sì, ma una grande complicità con i compagni, non abbiamo mai lasciato nessuno da solo. Carlo, ti ringrazio molto e stai su però adesso. Adesso mi riprendo. Bravo, grazie. Ciao. Mille, buona giornata. Voi siete siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nel rispetto dell'anonimato, la foto di oggi di Carlo è una sorta di locandina. È, credo, la prima pagina della scuola di fanteria e cavalleria, 128esimo corso AUC, 1987. In copertina c'è un disegno, ci sono due, credo, cadetti, allievi ufficiali probabilmente, con un abito rosso e un cappello in testa. Voi siete qui. Tell me, champ, would you have been prepared to go into the army if it hadn't been for the Vietnam War? No, under no conditions do we take part in wars to take lives of other humans. A nessuna condizione prenderò parte alla guerra e ucciderò altri esseri umani. Queste sono le parole che Muhammad Ali disse nell'anno in cui il governo americano lo chiamò alle armi dicendogli che doveva andare in Vietnam, doveva fare il militare. Lui sosteneva, di essendo un musulmano, la regola islamica prevedeva che non potesse entrare in guerra. Fece uno scalpore enorme con la storia e le sue parole, anche perché lui di fatto dovette mollare la corona di campione e non poté più combattere per un tot di anni, non ricordo quanto, forse un paio d'anni non poté più combattere. Quello fu però appunto insieme forse a quello di Celestino V del 1200, quello del 1960 e qualcosa di Muhammad Ali, fu forse uno dei più grandi rifiuti in quel caso della storia dello sport, ma non solo, ormai sono tutti convinti che non sia solo un personaggio sportivo Muhammad Ali. Francesca invece, Francesca mi scrive 349 238 6666: il mio era un no secco, deciso e determinato, l'ho ripetuto più volte, sempre più convinta e accompagnandolo con diverse argomentazioni. Ragazzi, è notte, fa freddo, mi bagno i capelli e mi verrà il cagotto, ma non c'è stata via d'uscita. In un attimo i piedi sono stati staccati da terra e un istante dopo ero in piscina. Ferragosto non perdona. Luciana, è stato un no ad una regola ridicola, mi scrive. Al lavoro, 4 anni fa, non ho rispettato una prassi per loro fondamentale: chiedere il permesso. Cioè, io avrei dovuto farmi autorizzare uno sconto extra per un cliente importante. Sapevo che sarebbe stata, come sempre, la solita pantomima e che alla fine avrebbero detto di sì. Non avevo molto tempo per fare la trafila dei vari capi e così il permesso me lo sono data da sola. Risultato: licenziamento in tronco perché non allineata all'azienda. Voi siete qui, @radio24.it oppure 349 238 6666. Quando si parla di rifiuti e quando si parla di grandi rifiuti arrivano delle mail come quella di Claudio, che è arrivata proprio 2 minuti prima di andare in diretta e che, tanto per cambiare, ha a che fare con il militare. Anno 2004, servizio militare nei Carabinieri. Ho appena finito i 3 mesi di CAR. La destinazione che mi assegnano è Battaglione La Marmora di Milano. Ho 20 anni, sono in un periodo della vita dove sono un po' sprovveduto e un tantino fuori di testa. Ho fame di vita e di esperienze. Sono in divisa e con una pistola nella fondina da 3 giorni. Eccitato per il mio primo ordine pubblico, allo stadio, partita Brescia-Verona. La partita è una specie di derby ed è molto sentita dalle tifoserie. Arrivati a Brescia con il blindato, una parte va direttamente allo stadio, mentre pochi altri, me compreso, vengono portati alla stazione per accogliere e scortare i veronesi. Arrivati in stazione trovo i classici autobus arancio in attesa dei tifosi. Li sento avvicinarsi dai vari cori che rimbombano negli edifici. Per me è tutto nuovo, compreso con gli sguardi poco rassicuranti e pieni di odio che mi ritrovo addosso. Rimango esterrefatto alla vista degli autobus. Al posto dei vetri hanno delle reti metalliche e l'autista è chiuso dentro anche lui in una gabbia metallica. Mi dicono che tanto i vetri li spaccano e l'autista rischia la vita. Insomma, finalmente arrivati allo stadio siamo sani e salvi. Scendiamo. La partita va relativamente bene, 1-1, senza problemi di ordine pubblico. Solo che i bresciani decidono di aspettare fuori i veronesi, che però vengono tenuti dentro allo stadio. E allora, come capita in queste occasioni, se la si prende con i carabinieri. Noi da una parte dietro le transenne e loro dall'altra con sassi, insulti e cassonetti che vanno a fuoco. Insomma, guerra. Ed ecco il mio capitano che mi dice di andare a prendere i lacrimogeni e il fucile per spararli. Io, in quanto spina, credo voglia dire novello, no? Matricola, ero responsabile di quell'armamentario. Mi dice di caricarlo e tenermi pronto a sparare. Io ero agitato, carico, pieno di adrenalina e odiavo quella massa di gente che per tutto il giorno mi aveva squadrato male e che in quel momento mi avrebbe linciato. Il capitano mi guarda e mi dice che quando devo sparare devo farlo ad altezza uomo. perché sparare la parabola finirebbe a 200 metri nei palazzi dietro. Ad altezza d'uomo, gli chiedo, ma se prendo in testa qualcuno lo uccido. E quindi mi rifiuto. Passo il fucile a lui. Quel lacrimogeno non è mai stato sparato. E io mi sono preso 2 settimane di consegna. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. The plan. You ask me for a contribution. Well, you know. Fare la UC, mi scrivono, è una tua scelta, non è un obbligo. Se non condividi scelte ed ordini, sei libero di lasciare il grado di ufficiale dell'esercito. E ancora, invece, Paolo, che viene da una famiglia di macellai, dopo aver assistito ad una macellazione, ho istantaneamente rifiutato la carne. C'era un altro messaggio di Davide. L'ordine a cui ho detto di no era un ordine di sgombero e riguardava lo spazio sociale autogestito al posto del quale ora sta sorgendo un autodromo. Ci siamo opposti in modo non violento, costringendo le forze dell'ordine a sollevarci di peso, finché in un momento concitato è partita una piccola carica. Alla quinta volta che mi sollevavano di peso, l'agente della Digos mi ha chiamato per nome e mi ha detto: ma ancora qui stai? Io ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Franco Piantanida. La storia di oggi era quella di Carlo e di dire di sì o di no agli ordini. Quella di domani è invece la storia di Beatrice e si parla di bici rubate. E mi viene in mente che nel Medioevo, per stabilire chi avesse ragione, usavano delle prove di forza e che chi riusciva a estrarre la spada dalla roccia era destinato ad essere re. E allora ce la devo fare, perché quella bici è mia. Ma mi sembra un'impresa insormontabile. Sono alcuni minuti che armeggio con il tenaglione sulla catena e sul lucchetto, ma non ne vengo a capo. Inizio a sudare, mi sento osservata, ma non sono una ladra. Ma porca miseria, la bici è mia. È possibile trovarsi in questa condizione?